e per i terremoti la stima sempre media all'anno è varia fra 1,8 miliardi e 3,2 miliardi, a seconda di quali sono gli effetti che si prendono in considerazione. Ora, quali sono le misure da prendere? Da un lato, fare in modo che i territori più vulnerabili per il rischio idrogeologico vengano attrezzati, sì, per esempio per sopportare piogge molto intense, ovvero precipitazioni concentrate in un tempo molto breve ma con quantità molto importanti, come è avvenuto a Genova piuttosto che alle Cinque Terre, piuttosto che in Sicilia. Attrezzare questi territori vuol dire essere in grado di assorbire questa quantità di acqua, sì, e fare in modo che questa non determini poi gli effetti che ha determinato. Ma per fare questo bisogna fare due cose: da un lato evitare che ci siano insediamenti abitativi o produttivi in zone che non riescono a reggere poi l'urto di questi eventi, e dall'altro avere i fiumi puliti, le fognature dimensionate allo scopo. Dall'altro lato abbiamo territori importanti nel nostro paese che sono stati abbandonati da decenni. E per questo servono anche, immagino, dei finanziamenti, Ministro. Guardi, i finanziamenti che servono per gestire il territorio e perciò fare la prevenzione, nelle stime che abbiamo fatto, che coincidono con quelle per esempio del Centro Studi dell'Ordine dei Geologi, sono inferiori alle risorse che servono per intervenire dopo. Lo stesso problema vale per i terremoti. Qual è il dato più drammatico dei terremoti? La perdita di vite umane dovute al crollo di abitazioni o di insediamenti industriali. Ora, i terremoti non si possono prevenire, i danni in parte sì. Basterebbe costruire o ricostruire, avendo in mente le norme antisismiche, che sono le norme tecniche di costruzione antisismiche, che quando applicate funzionano. A questo proposito, Ministro, secondo lei la mappa sismica, la carta sismica italiana è adeguata? Perché molti dicono che i capannoni sono crollati perché costruiti secondo delle normative vecchie. Allora, c'è una singolare polemica. Certo che la mappa sismica non è aggiornata, è ovvio questo, perché se abbiamo delle previsioni di eventi sismici medio-bassi in zone dove invece l'evento è significativo, vuol dire che la mappa non è aggiornata, ma questa non è una colpa di chi fa le mappe, perché le mappe si aggiornano soprattutto sulla base degli eventi storici. Il problema però è che ormai è chiaro che la sicurezza nella costruzione degli edifici deve essere tarata sul rischio più elevato, non su quello che dicono le mappe. Le mappe sono indicatori che servono soprattutto per attrezzare i territori agli eventi, però le strutture edilizie, le strutture industriali devono seguire dei criteri di costruzione tarati su rischi più elevati di quelli segnalati sulle mappe. Quindi essere più prudenti di quello che la mappa dice. Sì, ma questo è quello che già avviene quando si costruisce una raffineria, piuttosto che una centrale termoelettrica, piuttosto che un'infrastruttura importante, per esempio un ponte. Non è che i criteri di costruzione seguano quello che viene previsto, sì, nella mappa sismica, seguono criteri diciamo di sicurezza superiore, molto più conservativo, e questo Senta, è quello che dobbiamo fare. Ministro, le vorrei chiedere questo: secondo lei è stato giusto aumentare l'accisa sulla benzina? Sa che molti italiani hanno accettato, certo, c'è il dramma, però molti l'hanno accettata come l'ennesimo provvedimento di tasse sugli italiani. Guardi, noi avevamo bisogno di risorse subito per sostenere una zona che non soltanto ha avuto un evento drammatico, ma che è anche uno dei punti di riferimento della nostra attività economica. Allora, sostenere quel territorio oggi vuol dire sostenere l'Italia. Non avevamo altri mezzi a disposizione immediatamente disponibili per, sì, per avere risorse. Questo è molto chiaro, cioè non è che possiamo lavorare di fantasia. Quello che voglio dire però è che la polemica che si è aperta attorno ai 2 centesimi sulle accise che vengono riferite come un immediato aumento del prezzo della benzina, mette in evidenza che non si calcola assolutamente il margine dei petrolieri, cioè è, sì, come se fosse automatico, c'è un aumento sulle accise, c'è un aumento sulla benzina. Al quale il ministro Passera ha fatto questo appello, che per ora mi sembra caduto nel vuoto, non mi pare. Sì, c'è un appello che è diciamo alla buona volontà, ma a questo va aggiunta anche una riflessione sul fatto che quando il prezzo dell'olio nel mercato internazionale, nel mercato globale, scende, il prezzo della benzina rimane alto. Vuol dire che ci sono dei margini per i petrolieri che non sono legati, sì, al prezzo internazionale. Però si può intervenire in modo diverso rispetto a un appello alla buona volontà? Credo di sì, credo che si debba cominciare a fare, perché sostanzialmente è ora di dire che è necessario stabilire una regola che metta almeno in relazione il prezzo della materia prima con il prezzo di vendita, perché altrimenti noi da un lato protestiamo, cioè la popolazione viene sensibilizzata sul fatto che 2 centesimi sulle accise, certo, portano un aumento della benzina, però mi pare che non ci sia molta sensibilizzazione quando il prezzo dell'olio cala di 2, 3, 4 euro al barile e il prezzo della benzina rimane uguale. Come dire, c'è un algoritmo che i petrolieri usano che non è comprensibile dal punto di vista della relazione tra i costi della materia prima e il prezzo alla vendita. Ministro, forse è il caso di rivederlo. Ho un'ultima domanda. Oggi il Corriere anticipa questa ipotesi del governo per rilanciare la crescita, con anche inserire una norma al prossimo Consiglio dei Ministri per sbloccare le infrastrutture come gasdotti e rigassificatori laddove c'è contenzioso con le regioni. Bisognerebbe agire d'imperio in alcuni casi, secondo lei? Guardi, la questione è molto pratica. Se ci sono delle obiezioni, per così dire, di carattere ideologico, queste vanno superate, perché non è accettabile che ci siano motivazioni non consistenti che bloccano opere di interesse pubblico. Se invece le motivazioni sono consistenti, queste vanno considerate. Per esempio, la realizzazione di un gasificatore. I gasificatori sono importanti anche per la diversificazione degli approvvigionamenti, per esempio per il gas naturale. La realizzazione di un gasificatore non è neutrale rispetto al territorio nel quale si colloca. Se un gasificatore viene messo in un porto, comporta dei vincoli e delle limitazioni all'attività del porto. Perciò si tratta di vedere concretamente qual è il rapporto costi-benefici. E questo è un ragionamento che va fatto nel merito. Se invece ci sono obiezioni che sostanzialmente fanno riferimento ad una visione così astratta delle politiche energetiche, probabilmente queste vanno superate con una responsabilità centrale. La ringrazio, Ministro, per essere stato con noi. Grazie, ovviamente. Buona giornata a lei, al Ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, e poi vogliamo tornare sul caso. Abbiamo avuto venerdì scorso, lo ricordate, l'onorevole Tidei del Partito Democratico, che fatica a dimettersi, ma dice: mi dimetterò, perché è anche sindaco di Civitavecchia. E per questo c'è gente che scalpita dietro per subentrargli, così anche come il caso di Leoluca Orlando, neosindaco di Palermo, che però non si dimette per il momento dalla Camera. Avremo ospite le due persone che dovrebbero subentrare a Tidei e Orlando, che dicono: ma che è, insomma, questi politici che tengono sempre più poltrone. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:37 minuti. Allora, come sapete, una delle caratteristiche dei politici, a meno se io facessi idealmente una domanda a voi ascoltatori, qual è una delle caratteristiche, delle prerogative dei politici italiani? Molti di voi risponderebbero, immagino, non lasciare mai le poltrone che occupano. Allora, noi abbiamo avuto venerdì scorso l'onorevole Pietro Tidei, neosindaco anche di Civitavecchia, Partito Democratico, aveva detto in campagna elettorale: mi dimetterò appena se verrò candidato sindaco, perché le due cariche sono incompatibili. Venerdì ai nostri microfoni ha detto: mi dimetto, ma calmi tutti, stiano calmi tutti, mi dimetto con i tempi previsti dalla legge, cioè c'è la legge, la giunta per l'incompatibilità, deve avanzare la richiesta di incompatibilità, mi deve scrivere il presidente della Camera e da quel punto io ho 30 giorni per dimettermi. Saluto Mario Adinolfi, buongiorno Adinolfi, benvenuto. Buongiorno. È colui che subentrerebbe a Pietro Tidei, giusto per la cronaca, nel seggio parlamentare. Saluto anche Giuseppe Vatinno, Adinolfi, le faccio conoscere un altro che sta aspettando. Vatinno, buongiorno. Buongiorno. Lei è responsabile oggi ambiente dell'API e subentrerebbe, in attesa di subentrare, a Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo, che presumibilmente opterà per lasciare la Camera. Allora, Adinolfi, abbiamo titolato questa parte della puntata Fatevi da parte. Lei ha già detto sì, che non è una guerra personale tra Tidei e lei, ma un rispetto delle regole, cioè o le regole si rispettano oppure le regole non si rispettano. Lei che le leggi? Le leggi. Il problema nodale è che la giustificazione di Tidei è la famosa procedura, che è la procedura che viene utilizzata per coloro che non accettano l'evidenza dell'incompatibilità. Per capirci, è come se il ladro preso in flagranza dicesse: vabbè, intanto mi spendo la refurtiva, poi accertate che effettivamente io sia stato ladro. Non funziona così. In realtà il sindaco di Siena del PD del 2011, eletto nel 2011, si è dimesso il giorno dopo, come da legge, come da sentenza della Corte Costituzionale, che è di gradino superiore alla legge, e peraltro come da regola interna del PD, perché è scritto nello statuto e nel codice etico del Partito Democratico. Sai cosa dice Tidei? Non è vero che la procedura di legge è quella che dice Tidei, quella è la procedura che si adotta contro quelli che non accettano l'evidenza dell'incompatibilità. Per fare melina si adotta quel tipo di procedura. Però dal punto di vista della legalità, voglio dire, se uno rispetta la procedura, non è che gli si può imputare di fare qualcosa di illegale a Tidei, no? No, di fatto sì, perché l'incompatibilità scatta nel giorno dell'elezione. Come l'ho detto, il sindaco di Siena nel 2011 si è dimesso il giorno dopo. Non è una sua scelta, l'incompatibilità è palese. Dopo che uno, diciamo così, vuole farsi accertare questa incompatibilità, mette in moto tutta una serie di procedure che sono contro quello che è in mora, comunque è in mora. E tra l'altro possiamo dire una cosa che insomma forse interessa di più agli italiani: ma è accettabile questo spettacolo? Perché farlo? È inaccettabile il fatto di tenere due poltrone, di fare due lavori male, evidentemente. Tidei l'ha spiegata così: c'è la questione del buco di bilancio a Civitavecchia che ho scoperto insediandomi. Se io non preparo il bilancio certificato entro il 30 giugno, c'è il rischio che cada la giunta. Allora io che faccio? Nel frattempo magari mi sono dimesso da parlamentare, mi cade il consiglio comunale per un buco di un'amministrazione precedente, io mi ritrovo senza né l'una né l'altra poltrona. Da voi è uscito proprio il candore del politico, insomma, come dire, di lungo corso, che non capisce che dire una cosa del genere è inaccettabile. Insomma, ogni tanto si può anche correre qualche rischio, tra l'altro, diciamo così, qualche rischio calcolato, perché Tidei, che da voi ha detto che da 42 anni vive nelle istituzioni, è dirigente, è nel pensionato, ha il vitalizio da consigliere regionale, quando si metterà da parlamentare avrà il vitalizio da parlamentare. Diciamo che insomma non è che proprio lo mandiamo in mezzo a una strada. Dire da voi in quella maniera: ma poi io rimango senza poltrona, è incredibile, vuol dire non percepire quello che la gente sta pensando della politica in questo momento, che è il famoso tutto magna magna, e non è così, la politica dovrebbe essere alta e nobile. Cioè tutti i voti a Grillo, sa quanti ci hanno scritto, sono tutti voti a Grillo mentre parlava, certo, mentre parlava Tidem. Ma Andrea Sarubbi, deputato del PD, che non è esattamente Che Guevara, è un deputato moderatissimo, così si consegna un voto al minuto a Grillo, nei due mesi delle procedure, gli consegneremo 90.000 voti, è qualcosa di incredibile. Domani c'è il comitato per l'incompatibilità della giunta per le elezioni, sì, che poi per somma e cosa italiana, di cui membro è Tidei. Sì, esatto, lui è membro del comitato dell'incompatibilità. Questo è vero, allora, questo però non ci si può fare niente, è una coincidenza. È una coincidenza strana, è una coincidenza. Costa domani andare a questo comitato con la lettera delle dimissioni, che problema c'è? Qual è la cosa che perde? Senta, però Adinolfi, l'accusano lo stesso Tidei di avere una smania per occupare lei stesso una poltrona, perché poi lei dice è una questione di regole, però cambia. Lei cosa cambia? Questo non lo so. Sette mesi di parlamentare, cioè io non è che prenderò il vitalizio, a me non succede niente, a me non cambia nulla. Certo, ovviamente, grazie a Dio in democrazia esistono interessi confliggenti. Se non avessi parlato io contro questa illegalità, lei crede che avrebbe parlato qualcun altro? No, no, qualcun, ma infatti, altro del Partito Democratico si sarebbe occupato. Ma adesso questione, sulla questione del Partito Democratico ci arriviamo, perché lei ha parlato anche, vorrei approfondirla tra un attimo, la questione anche di ipotesi, addirittura di complotti. Però prima vorrei anche salutare Giuseppe Vatinno, l'abbiamo sentito, l'ho salutato, eccoci qua. Allora, lei, Vatinno, vuole per legge dovrà subentrare alle Luca Orlando quando Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, lascerà la Camera. E anche lei le piace questa idea della procedura? Orlando addirittura ha detto... Diciamo è leggermente diverso, perché Leoluca Orlando ha scelto una strategia difensiva, secondo me più sottile, perché ha cominciato a dire in giro che lui si era dimesso. Lei guarda sui comunicati stampa, eccetera. Sì, è vero, ha detto comunicato per posta alla Camera, evidentemente non è arrivata la posta. No, ma peccato che io poi chiaramente conosco il contenuto della raccomandata, e c'è scritto dentro come una matriosca che si dimetterà nei termini di legge, quindi ritorna il discorso di Tidei. Però in giro dice che lui si è dimesso addirittura, quindi mi pare una strategia addirittura più abile in questo senso. Il problema è che invece non l'ha fatto per niente, quindi in Italia lei dice giustamente che dal punto di vista legislativo invece la situazione è complessa, perché siccome passa dalla Giunta il discorso con un piccolo parlamentino, c'è anche un comitato che riferisce alla Giunta, si riunisce, vota, ci sono rappresentati tutti i partiti, in pratica la prima riunione è andata deserta, sì, c'erano quattro persone, quindi il giochetto potrebbe essere naturalmente, utilizzando la legge poi, che non so se si ricorda il caso Previti, praticamente è rimasto un anno e mezzo e non si è riuscito a mandarla a casa, che se arriva l'estate poi passano altri due mesi, poi ci sono altre problematiche, la Giunta non si riunisce più e arrivederci, grazie. E questa è la legalità in questo paese, in questo senso io mi aspetterei, a parte i voti a Grillo che sono naturalmente un automatismo da parte di tutti i partiti, un intervento alto delle istituzioni. Senta, ma in questo caso non c'entra anche il fatto che lei, che era, immagino, eletto nell'Italia dei Valori, adesso è dell'API, quindi avendo cambiato partito lei... Ma c'è un motivo, adesso ho capito, però sono ben tre anni che sono passato in API, mica casualmente. Cioè loro, l'Italia dei Valori perderebbe un seggio in favore dell'API. Cioè, andrebbe anche nei dintorni di una zona critica come numero di deputati, perché ne avrebbe 20, che è proprio il limite per non sciogliere il gruppo alla Camera. Quindi c'è un problema nel problema qui. Quindi il problema è la legge e legge. Io sono andato via per motivi politici, nel senso che proprio nel 2008, dopo tanti anni, ho fondato un po' l'ambientalismo, l'Italia dei Valori, che allora il ministro Di Pietro era tutt'altro che sensibile, essendo alle infrastrutture. Quindi ho lavorato parecchi anni e lui mi ha proposto questa cosa praticamente certa nel 2008. Se non che a un certo punto, purtroppo, Italia dei Valori ha fatto una cosa che è quella delle candidature multiple, che fanno poi molti partiti, solo che Italia dei Valori dice che è una cosa orribile per la politica, però in genere lo fanno con molta gioia. No, si fermi qui, do le informazioni sul traffico, poi me la spiega queste delle candidature multiple, perché la voglio capire tra un attimo. Allora, Allora, siamo con due personaggi, Mario Adinolfi e Giuseppe Vatinno, che sono in attesa di subentrare rispettivamente a Pietro Tidei e a Leo Luca Orlando in Parlamento, perché dovrebbero dimettersi queste persone, Tidei e Leo Luca Orlando, essendo diventati sindaci e anche essendo parlamentari sono incompatibili per legge, ma non riescono a subentrare perché quei due non si fanno da parte. Allora, Vatinno, intanto cosa sono brevemente queste candidature multiple? No, la possibilità che la legge dà di fare candidature in diversi collegi. Ah, in diversi collegi, E quindi a un certo punto si sceglie, e quindi questo dà un grande potere di scelta, è un grande, diciamo, in genere grandi problematiche alla fine. E quindi poi giochetti vari e cose varie. Orlando, eletto in Sicilia, in due collegi, Sicilia 1 e Sicilia 2, venne nel Lazio 1, appunto, dove... Insomma, a lei non è piaciuta questa cosa, per motivi politici suoi... Naturalmente non mi fece piacere, e quindi... No, ma è chiaro, diciamo, lei ha lasciato il partito per divergenze politiche. A proposito di partiti e problemi col partito, Mario Adinolfi, allora questa adesso ce la deve spiegare. Lei ha parlato anche, lei è molto seguito su Twitter, la seguo anch'io, è anche un noto blogger, e quindi ha un folto seguito, e lei ha parlato varie volte di complotto, posso usare questa parola? Cioè, come dire, qualcuno complotto, però qualcuno all'interno del partito le rema contro, e che avrebbero da remare contro Mario Adinolfi? Io ho detto una cosa banale, che chiunque mi segue sa, che il Partito Democratico non mi ama particolarmente, insomma, anzi ha un evidente fastidio. È stato chiesto a Bersani esplicitamente sul caso della dimissione di Tidei, e Bersani ha risposto senza neanche trincerarsi dietro le formule di rito, ha detto una cosa tipo: deciderà il gruppo, che ovviamente non esiste, non sta in cielo né terra, è la legge, perché decide la legge, decide la Corte Costituzionale, decide lo statuto e il codice etico del PD, che il segretario del PD credo conosca bene. È evidente il fastidio della segreteria nazionale rispetto alla mia avanzata, perché io ho mosso critiche durissime nei confronti della segreteria nazionale. Quindi non la vogliono certo, non lo dico io, il senatore Tubaldo del PD, altro, diciamo, non noto Che Guevara, ma moderatissimo senatore, ha scritto un articolo in cui ha scritto che Adinolfi subisce una manganellatura, ma questo è che è palesemente così. Insomma, ma qua c'è la legge, cioè non è che Tidei si può stare abbarbicato allo scranno, non è che... Allora, Tidei ha detto pubblicamente ieri, dopo la vostra trasmissione in cui evidentemente è andato un po' fuori le righe, mi ha chiamato Carogna, insomma ha esagerato un po'. No, vabbè, ma non era riferito a lei, Carogna, era riferito a tutti, a coloro... mi rimetto il 1 luglio, ha detto. Sì, e dopo il bilancio del 31 allora, giugno. No, proprio ha detto la data, ha detto il 1 luglio. E certo, perché il 31 giugno c'è la scadenza del bilancio, è riferita credo a quello, cioè se lui approva entro il 31 giugno... ha chiesto la proroga del bilancio al 31 luglio. Sì, è vero, luglio, è vero. Diciamo, lui ha detto una data, io vi invito il 2 luglio a fargli una telefonata per sapere se ha mandato l'email di dimissione. il 2 luglio lo faremo segnare in agenda. La letterina. Segnare in agenda, redazione. Che poi si perde, perché quella lettera si perde ovviamente nelle poste, si perde. Lui deve mandare una lettera a Fini e per conoscenza a Migliavacca, che è il presidente della giunta delle elezioni, e dire lascio finalmente. Allora, ma che scherza di noi, fino a qua abbiamo già l'agenda, cioè abbiamo il planner 2 luglio segnato, chiamiamo Tidei, se no chiamiamo anche lei, magari vi facciamo parlare. Sentiamo un ascoltatore che ci ha chiamato l'800240024, Riccardo da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Riccardo, dica. Niente, io sono iscritto al PD dalla fondazione, devo dire che questo dibattito tra Adinolfi e Tidei mi fa capire quanto siamo in difficoltà, insomma due persone che dichiarano di essere dirigenti, comunque influenti nel nostro partito, io sono un militante di base, sono un piccolo imprenditore, non le piace sentire che uno non vuole lasciare o comunque accampa i ragionamenti in punta di diritto, apparente diritto. E Adinolfi che non vede l'ora di sedervisi, mi sembra insomma una lotta tra pari. Anche se Adinolfi dice a me non interessa. Comunque Riccardo stia qui, le risponde Adinolfi. Parli con Adinolfi, l'Adinolfi risponde a Riccardo che l'ascolta. Mi piace questa cosa, perché è un dibattito che è abbastanza folle nel PD. È la legge contro il diritto, questo è il confronto. Io no, contro direi, non ho mai usato una parola politica, non ho detto carogna, non ho usato nessuna espressione. C'è la legge e nel PD siamo per la difesa della legalità da sempre. No, ma credo, credo che quello che ha Dinolfi, quello che Riccardo le imputa, Riccardo è qui con noi, a dire, cioè, questa sembra di percepire una smania. Non avrei dovuto dire nulla. Non avrei dovuto dire nulla. No, sentiamo, Riccardo avrebbe dovuto subire, stare zitto e non parlare di legalità. No, il problema non è che lui non è credibile, perché è il primo beneficiario di questa follia. La follia della casta, e contro la quale dichiara spesso di combattere. Ma Adinolfi dice di fare una battaglia per la legalità, Riccardo. Ma non prendiamoci per i fondelli, sarebbe così se lui accettasse poi e dicesse, come sarebbe corretto per noi che siamo coloro che tutti i giorni tengono in piedi questo partito, se dicesse che lui comunque fuori Tidei e lui non accetta. Oh, lo faccia Adinolfi, e invece di subentrare... Perché se no sembra di fare una battaglia per se stesso, Adinolfi, per voler quella poltrona. Adesso il problema è mettere sullo stesso piano, questo è un meccanismo che il PD, la dirigenza del PD ha fatto filtrare, per cui è sullo stesso piano chi si abbarbica la poltrona e chi chiede il rispetto della legge. Mi dispiace, questo tipo di ragionamento è molto di matrice, diciamo così, post-comunista, per difendere il deputato post-comunista che non vuole mollare la poltrona e buttarla in cacciata dicendo che è tutto uguale. Vabbè, non è tutto uguale. Sentiamo Emilio da Modena, buongiorno. Emilio, buongiorno. Senta, io sono qua, due parole. Devo ammettere la mia ignoranza campo, però voglio dire a sti politici, cioè, devono smettere di venire in trasmissione a raccontarci palle, sono soltanto dei ladri, non vogliono mollare la poltrona, non si vergognano a parlare con degli operai che hanno perso il posto di lavoro e solo quello avevano, loro hanno doppi incarichi, si fottono doppio stipendio, mi permetta, non ne possiamo più, la devono smettere di venire qua a raccontarci le favole, che se nessuno almeno a casa loro abbiano almeno la compiacenza di non far ridere la gente. Non lo possiamo più, basta, ci fanno schifo, almeno a me personalmente fanno schifo i politici. Va bene, grazie Emilio, io concludo con il suo sfogo, a dire che voglio dire, io li invito i politici, però insomma lei ha sparato un po' nel mucchio, mi fanno un po' però guardi che lo dico sia a Dinolfi sia a Vatinno, lo sapete meglio di me, c'è molta gente, molti italiani che la pensano così, è molto diffusa questa idea. Comunque ci siamo segnati le date, ringrazio Mario Adinolfi, ringrazio Giuseppe Vatinno, e ci siamo segnati la data, è 2 luglio, assolutamente è vero, Tidei ha detto il 1 luglio mi dimette dopo il 31 giugno il bilancio, staremo a vedere. Grazie a tutti, da Elisabetta Fusconi in redazione, con Alessandro Longoni, con anche il nostro Diego Rovelli, saluto anche Miriam Lucchetti, tutti in redazione, il nostro alpino ovviamente Peter Bescapè lì a concludere il suo turno di regia. Ci trovate ovunque, intanto potete riascoltare tutto su radio24.it, il nostro sito, ci trovate su Facebook così 24 mattino, mi trovate su Twitter @AlinoMilan e anche @24mattino, se non abbiamo detto tutto, ci trovate in tutti i modi, comunque la vogliate vedere, e ci troviamo domattina 24 mattino.